24 mattino di Alessandro Milan. Quando scoccano le 7:20, buongiorno e ben ritrovati cari ascoltatori con 24 mattino in diretta fino alle 9 con il nostro Pietro Lacorte, ormai quasi fisso in regia, che saluta con la manina. Ciao Pietro. E allora ci troviate anche su Facebook con la nostra pagina 24 mattino. E di cosa parliamo alle 8:30 nel nostro sondaggio? Parliamo di matrimoni e di coppie di fatto, perché il sindaco di Bologna qualche giorno fa, lo sentiremo in un'intervista in TV, ha detto chi si sposa si assume una responsabilità maggiore di chi convive, quindi bisognerebbe favorire le coppie sposate. Che ne pensate? È una visione moderna, è una visione giusta, una visione che condividete. Ne parliamo alle 8:30 e adesso ci tuffiamo nella lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Giovedì 23 giugno, le aperture dei giornali si dedicano su vari temi. Il Sole 24 Ore apre sulle pensioni, stretta sull'età, anticipato al 2013 l'aggancio all'aspettativa di vita. Questo è previsto come studio nella manovra. E anche la Stampa, pensioni e intercettazioni, il governo ora accelera. La Stampa mette insieme l'altro grande tema, intercettazioni, perché anche oggi esondano sui giornali le pagine dell'inchiesta P4 e infatti il Corriere, le carte e le lotte interne al PDL, i verbali della P4. Per Repubblica, intercettazioni, nuova legge bavaglio. Per Libero, la vera P4 sono i PM, spiano il governo. Il Fatto Quotidiano, un titolo che riprende due intercettazioni, io lo devo leggere, è un governo inutile, e l'altra frase a grandi caratteri, mostri, stronzi, mignotte. Il Giornale, l'Italia peggiore c'è, Brunetta aveva ragione, chi sono? Per Il Giornale, scontri e petardi lanciati dai precari della scuola fuori dal Parlamento. Per Il Messaggero, Castelli insulta i romani, il titolo d'apertura è l'intervento del viceministro ieri alla Zanzara di Cruciani, che ha detto, Castelli ha detto, attaccato i romani perché non vogliono pagare il grande raccordo anulare, arretrati culturalmente, poi ha detto mi riferivo ai politici romani. Governo balneare, questo è il titolo di apertura dell'Unità, ci sono Bossi e Berlusconi ritratti in primo piano. Le segnalazioni da cui voglio partire sono tutte relative ai costi della politica, ci sono tanti articoli su questo oggi. Tra l'altro Oscar Giannino ne parlerà alle 9 di questo tema, i costi della politica. Pagina 7 dell'Unità, della Stampa. Pagina 7 della Stampa. Deputati vitalizi da record. Il triplo dei colleghi europei. Vi metterò di buon umore con queste segnalazioni subito di prima mattina. Carlo Bertini racconta di un dossier riservato a cui hanno avuto accesso i tre questori della Camera, che sono i tre onorevoli, e sono Colucci, Mazzocchi e Albonetti, che hanno potuto vedere queste 33 pagine e 8 capitoli di un dossier riservato al trattamento economico dei deputati comparati tra Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo. Ebbene, sono stati scoperti alcuni dati. Il primo, che i nostri onorevoli italiani, dunque, percepiscono un vitalizio, cioè una pensione, chiamiamola così, quando finiscono la carica di parlamentare, all'incirca triplo di quello dei loro colleghi europei. Da questa indagine, durata mesi nelle capitali europee, condotta da funzionari che hanno faticato non poco a vincere la tradizionale riservatezza delle istituzioni nazionali, emerge che il privilegio meno giustificato di cui godono gli onorevoli italiani sono proprio i vitalizi. Il massimo del vitalizio, 7.460 euro lordi al mese per un deputato che ha maturato almeno 3 legislature, 15 anni di mandato. E poi c'è un confronto a pagina 7 proprio dell'assegno vitalizio Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Unione Europea, come funziona. Per questo tema, secondo il Fatto Quotidiano, la seconda segnalazione sui costi della politica, pagina 8, attaccati alla legislatura, se Berlusconi cade perdono la pensione. Secondo uno studio di Open Polis, che è riportato da Wanda Marra, pagina 8, un'intera pagina del Fatto Quotidiano, sono 350 i parlamentari che non hanno al momento maturato il diritto al vitalizio e che, se non finisce la legislatura al suo corso naturale, non lo matureranno. Sono 246 alla Camera, 104 al Senato, e quindi questa teoria è ecco perché la legislatura durerà fino a fine mandato. Volete il terzo articolo su Repubblica che vi metterà di buon umore? Le spese della Camera sfondano il miliardo. Oltre 6.000 euro a ogni deputato pensionato. Goffredo De Marchis, una intera pagina, pagina 9 Repubblica. La Camera nel 2011 costerà 1 miliardo e non riuscirà ad abbassare questo tetto siderale né nel 2012 né nel 2013. Anzi, tra 2 anni, alla fine naturale della legislatura, costerà 74 milioni in più, passando dalla previsione di 1 miliardo 70 milioni rotti a 1 miliardo 114 milioni di euro. Che cosa pesa su questo? Beh, i vitalizi degli ex parlamentari, ma anche gli affitti di numerosi immobili da parte della Camera. E insomma, i radicali dicono soprattutto basta con gli affitti delle sedi, ma questo è. Il quarto articolo, sempre dedicato a questa, è una denuncia del senatore Ichino del Partito Democratico, che sarà ospite, tra l'altro, di Oscar Giannino alle 9, sul Corriere della Sera, pagina 24-25, i partiti defunti e gli ex dipendenti. Ichino dice stipendiati, ma non si sa perché. È una norma del 93 per la quale dipendenti di gruppi parlamentari che muoiono, i gruppi parlamentari, devono essere riassorbiti all'interno della Camera da altri gruppi parlamentari. Il risultato, ha denunciato Ichino snocciolando numeri, ci sono, non so, il gruppo del Popolo della Libertà dovrebbe avere, in base al numero dei propri senatori, 21 dipendenti, invece ne ha 30. Il Partito Democratico dovrebbe averne 18, ne ha 24. La Lega Nord dovrebbe avere 9 dipendenti, ma ne ha 10. E così via. Il movimento, il gruppo misto soprattutto dovrebbe avere 10 dipendenti, ne ha 21. E, insomma, Ichino ha denunciato questo, ovviamente tutto a carico nostro. In primo piano. Alle 7:35 minuti, allora, cari ascoltatori, come non leggere le intercettazioni? Insomma, i giornali sono pieni di intercettazioni, ancora oggi le prime pagine, tutte le prime pagine di questa inchiesta P4. Il tema lo sapete, Luigi Bisignani, che è stato arrestato, pare parlasse veramente con tutti. È che ci sono anche, francamente diciamolo prima, degli sputtanamenti oggi sui giornali clamorosi di persone, di ministri, di viceministri che parlavano o in alcuni casi sparlavano dei propri colleghi. Ieri, per esempio, il ministro Prestigiacomo, dicevamo, ha detto al telefono, l'abbiamo scoperto dai giornali, si è scoperto dai giornali di ieri, Berlusconi non è intelligente. Tanto che ieri Berlusconi si aggirava in Parlamento con questa battuta, con tutti, beh, si sa, tanto io non sono intelligente. E la Prestigiacomo, hanno fatto notare nel dibattito ieri alla Camera, non si è accomodata tra i banchi del governo, ma un po' più in là, tra gli scranni dei deputati. Oh, vedete, per esempio, oggi il Corriere, a pagina 2, le telefonate con le accuse nel PDL, Gelmini contro Letta e Cicchitto, il ministro Gelmini intercettata con Bisignani. Io non mi faccio trattare come Bondi, mi dispiace, ce l'ha in questo caso con un funzionario del ministero Tremonti, Fortunato. Questo Fortunato è un cafone, maleducato e anche impreparato, dice la Gelmini. E poi dice a Bisignani, capisci, se una persona come Gianni Letta, che è come l'amministratore delegato, consente che un capo ufficio si comporti così con un ministro, viene meno l'autorevolezza dell'amministratore delegato. E poi di Cicchitto parla di un'altra occasione, anche ieri ha perso un'occasione per stare zitto, perché Frattini ha fatto un intervento serio, dialogante. In 3 minuti salta su quell'imbecille di Cicchitto. Oppure sentite in un'intercettazione Bisignani e Roberto D'Agostino, l'animatore di Dagospia, parlano di Mara Carfagna, il ministro Mara Carfagna. Pensa, dice il fondatore di Dagospia, è sempre più matta, l'ultima volta mi hanno detto che lei vuole veramente, pretende davvero la mano di Berlusconi, vuole che Berlusconi la prenda e la impalmi. Sentite secondo Repubblica, un colloquio sempre di Luigi Bisignani, che dice: il governo ormai è lo sfascio, il povero Gianni Letta non ha più nessun tipo di ascendente, Silvio Berlusconi si fa male da solo, il comportamento dei ministri è d'asilo Mariuccia, Bisignani ascolta un po' tutte le telefonate. Per esempio chiama Daniele Capezzone, portavoce del PDL, la fiera delle piccole vanità sapessi, a livelli d'asilo Mariuccia, si tratta di ministri, viceministri, sottosegretari, degli spettacoli da ridere, se sulle cose più banali si fa questo circo, figurati sulle cose serie. Vabbè, questo è un po' il tenore, così aiutai la Santanchè a entrare nel governo, questo è anche il verbale di Bisignani su affari, manovre politiche. Italo Bocchino invece si rivolse a me perché riavere i contributi per l'editoria, e poi ci sono anche forti rapporti tra Bisignani e Scaroni, l'amministratore delegato dell'ENI, convocato da Berlusconi ad Arcore per parlare, chiama subito Bisignani dicendo: il presidente Berlusconi mi vuole vedere, non so cosa voglia. Ed ecco qui che Bisignani gli suggerisce la strategia, e parlano anche, per la verità, in questa occasione di Tremonti, Scaroni e Bisignani. Sto andando ad Arcore, dice Scaroni. Calcola che lui, risponde Bisignani, è molto polemico col tuo diretto interessato. Cioè con chi? Giulio, sì. E Scaroni dice: lo so, oggi Draghi mi ha detto delle cose pazzesche di Giulio. Insomma, vedete, il clima è questo, tutti che parlano un po' con tutti, o meglio, tutti che parlano con Bisignani, e al telefono con Bisignani parlano un po' di tutti. Ora, da queste intercettazioni, da quelle che vi ho letto, di reati non ce ne sono, però certo c'è da creare un clima di sputtanamento mica male, perché qualcosa ancora arriverà. Secondo Libero, la P4 è quella dei PM, Bisignani è una scusa per spiare il governo. Ci sono anche, ed è rispuntato il titolo di apertura di Repubblica, intercettazioni, nuova legge bavaglio, il governo sta pensando a che cosa? O tirare fuori dal cassetto un progetto di legge sulle intercettazioni già approvato in Senato, atteso in attesa alla Camera, oppure fare un decreto immediato, perché certo la situazione pare peraltro non finire, sono 19.000 pagine circa di questa inchiesta, e quindi quotidianamente uscirà qualcosa. Per esempio, io mi devo scusare, ma insomma, ci sono delle intercettazioni anche che hanno dei termini abbastanza espliciti. Si sa che l'ex direttore generale della RAI Masi, almeno questo si evince dalle intercettazioni, parlava spesso con lo stesso Bisignani. Per esempio, il progetto Mettiamo Vespa a Sanremo, parlano di questo, e poi però parlano di un programma di Monica Setta. E qui, l'hai visto il programma della Setta? Masi parla con Bisignani e Bisignani dice: è andato bene, no? E chi? Masi, al telefono, si lascia andare questo: ma che stai a di? Ma lascia sta che è andato bene, ma se io metto Cicciolina che fa qualcosa, non lo dico, a un toro la sera, faccio il 30%, ma che discorso è? Insomma, a Masi non piaceva Monica Setta e il suo tipo di TV un po' urlata, e per questo ha questa metafora. E allora metto Cicciolina che fa qualcosa a un toro e faccio il 30% di share. Rispunta anche dalle intercettazioni Pacini Battaglia, che ricorda il Fatto Quotidiano fu già condannato per i fondi neri ENI anni fa, per la precisione fu condannato nel 2003 a 7 anni e 3 mesi per i fondi neri dell'ENI, e rispunta in questa intercettazione. Come dire, il Corriere fa notare che in aula ieri ci sono stati veleni, accuse incrociate, l'ira della Prestigiacomo e della Gelmini, che sono state intercettate, appunto, le loro intercettazioni sono finite sui giornali. Mentre in aula è avvenuto anche un qualcosa di strano ieri, dove Berlusconi ha parlato sicuramente qualcosa di insolito, inusuale, e che tutti i giornali hanno immortalato. C'è anche una foto che è stata scattata da un deputato, il deputato Peppino Calderisi, che ha utilizzato un telefonino. È una cosa vietata, ma insomma l'occasione era davvero incredibile. Vale a dire, per la prima volta nella storia, qualcuno fa notare, Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro si sono parlati. A un certo punto Silvio Berlusconi, c'è una foto su tutti i giornali, è un po' sgranata perché è presa dal telefonino, la qualità non è eccelsa, Silvio Berlusconi si è alzato, è andato da Di Pietro, si è messo seduto e i due hanno chiacchierato. Di Pietro parla col Cavaliere, poi fa a pezzi il PD. Così titola pagina 5 il giornale, quella che viene definita la foto non dell'anno ma del decennio. Effettivamente tutti i giornali notano questo, anche l'Unità, pagina 7, flirt Di Pietro Silvio, e c'è una rivolta via web da parte dei seguaci dell'Italia dei Valori che dicono: Tonino, che hai fatto? Hai toppato? Cosa sta succedendo? Silvio in corona, Tonino re dei moderati. Se leggete anche il titolo di Libero, Salvatore Dama, il premier si siede vicino a Di Pietro e gli dice: hai dato una lezione a Bersani di come si fa l'opposizione. E anche la stampa: Di Pietro a sorpresa, la minoranza non è solo di sinistra, colloquio col premier che fa imbufalire i suoi fan. Poi in aula un attacco deciso a Bersani e al Partito Democratico. Insomma, cosa sta succedendo? La svolta moderata dell'Italia dei Valori. Anche Stefano Folli nel suo punto sul Sole 24 Ore, pagina 5, il nuovo Di Pietro adesso piace più a Berlusconi che a Bersani, scrive Stefano Folli: se ne erano accorti quasi tutti da tempo. Di Pietro aveva corretto e aggiornato la sua linea politica, del resto l'ex magistrato è piuttosto rapido di riflessi e Di Pietro ha compreso che non ha senso restare immobili in un mondo che cambia. Ovviamente tutti i cronisti hanno poi incrociato Di Pietro e Berlusconi a dire: che vi siete detti? Che vi siete detti in questo colloquio? Berlusconi ha glissato, non ha commentato nulla. Di Pietro, ovviamente ironicamente, gli ho detto: gli ho solo detto che deve dimettersi. E in realtà c'è questo colloquio misterioso, insomma, che effettivamente si è verificato. Mentre fuori dalla Camera, mentre dentro la Camera si discuteva, fuori dalla Camera cosa succedeva? Anche degli scontri con i precari della scuola. Il giornale oggi è molto duro e rispolvera la questione del ministro Brunetta, titolando in prima pagina: l'Italia peggiore c'è. Brunetta aveva ragione, scontri e petardi lanciati dai precari della scuola fuori dal Parlamento. L'editoriale di Vittorio Feltri, che scrive: i precari in questo modo hanno dimostrato che il ministro Brunetta ha ragione quando afferma che rappresentano l'Italia peggiore. Ma non c'è da preoccuparsi, in fondo il problema dei giovani laureati o no, nonostante abbia afflitto generazioni e generazioni, comprese le ultime, alla lunga si risolve da sé, con o senza il Cavaliere. Basta lasciarli invecchiare. In primo piano. Allora, parliamo un po' di economia. La prima pagina del Sole 24 Ore. Tra l'altro voglio segnalarvi che da oggi il Sole 24 Ore esce con una nuova iniziativa editoriale. Ogni giovedì sarà in edicola il nuovo supplemento Casa 24 Plus, e si concentra sulla casa in tutte le sue salse, 360 gradi. In questo primo numero ci si concentra sul mercato immobiliare che è in ripresa a Roma, e poi sul tema del giorno, il tema annoso sul quale si dibattono in milioni e milioni di italiani: mutuo o affitto? Questa è la domanda che si pongono davvero tutti in Italia. Ebbene, da oggi, ogni giovedì, questo inserto dedicato alla casa, da oggi il primo numero ci sarà, ovviamente. E, come detto, sullo sfondo di tutto quello che leggete, le intercettazioni, pensate a ciò che volete, insomma, telefonate, brandelli di conversazioni, sputtanamenti messi sulle pagine dei giornali, hanno rischiato e rischiano di offuscare i temi concreti, la manovra finanziaria di cui si discute. Un tema, per esempio, molto concreto con cui apre oggi il Sole 24 Ore è quello che si profila sulla questione delle pensioni. Con la manovra, infatti, si profila una stretta all'età pensionabile. Potrebbe essere anticipato dal 2015 al 2013 l'aggancio del momento dell'effettivo pensionamento dall'aspettativa di vita. E il pacchetto dovrebbe includere un prelievo sulle pensioni d'oro, l'aumento dell'aliquota contributiva dei parasubordinati al 33%. È questo il menù della manovra pluriennale, quella da 43-45 miliardi che si sta profilando. È allo studio, ovviamente tutti i dettagli li trovate a pagina 4 con Marco Mobile e Marco Rogari. Pensione, speranze di vita, aggancio anticipato al 2013, questa potrebbe essere la novità più importante, cioè anticipare di 2 anni l'aggancio del momento del pensionamento effettivo all'aspettativa di vita. Se ne sta discutendo, ovviamente i tecnici sono al lavoro. Tra l'altro, un altro tema su cui si sta molto dibattendo per recuperare costi, risparmi sui costi in vista della riforma della manovra è quello delle agevolazioni fiscali. Dino Pesole ne parla sempre a pagina 4, sono 476 al momento le agevolazioni fiscali e un riordino di queste agevolazioni potrebbe garantire a regime un risparmio fino a 16 miliardi di euro, fa sapere Dino Pesole. Questo equivale al 10% del minor gettito da ascrivere all'universo di bonus, sconti e deduzioni di vario genere. E c'è in corso la ricognizione in sede tecnica e non è escluso che in attesa del varo della delega fiscale alcune misure fiscali possano essere anticipate nel testo stesso del decreto. Ma ovviamente la scelta dovrà essere prevalentemente politica. Insomma, pensioni, come recuperare i costi, di questi temi si parla. Sul Sole 24 Ore trovate tutti i dettagli. È ampia oggi anche la pagina di esteri, sono due i temi che trovate. Beh, intanto quello che, come abbiamo sentito in apertura di GR24, il ministro degli esteri Frattini italiano ha lanciato, vale a dire l'idea di una tregua umanitaria in Libia. Per la verità è un'ipotesi che è un po' già tramontata, nel senso che già Parigi e Londra hanno detto di no, tanto che subito la Farnesina ha precisato era solo un'ipotesi di lavoro. Sta di fatto che il cessate il fuoco è escluso, soprattutto dai francesi, perché permetterebbe al colonnello Gheddafi di riarmarsi. Lo stop umanitario e raid in Libia, i no della NATO, Gheddafi si riarmerebbe. Insomma, questo è il tentativo fallito. Tra l'altro, noi sul nostro sito di 24 Mattino di Facebook abbiamo aggiornato, magari qualcuno dice con ironia, con sfottò, non era questo l'intento, ma era far capire un po' l'armata Brancaleone, che viene identificata come quella dei ribelli, che insomma sono un po' un'armata improvvisata a volte, tanto che c'è una conferma. Oggi il Secolo XIX scrive: sapete come vengono soprannominati dalla CIA i ribelli? C'è questa armata Brancaleone che insomma cerca di prendere il potere, di far cadere Gheddafi. Sono stati definiti i Flintstones, come i cavernicoli, i ribelli Flintstones. Questo a dire che insomma non è che siano organizzatissimi. I ribelli come i Flintstones, ecco perché Gheddafi resiste, così titola il Secolo XIX a pagina 5. L'altro tema che trovate sviluppato di esteri è il fatto che Obama, l'abbiamo sentito da Mario Platero da New York, ha confermato nella notte che 33.000 soldati andranno via da Kabul e quindi dall'Afghanistan, 10.000 subito. La prima fase della Exit Strategy finirà nel 2012. Anche qui ci sono molte critiche, perché qualcuno dice annunciare un ritiro nel 2013 dà fiato all'opposizione, ai talebani, a insomma qualcuno che in Afghanistan dice beh vabbè, stiamo tranquilli un anno e mezzo e poi il paese tornerà a nostra disposizione. Vabbè, c'è un tema interessante in prima pagina del Secolo XIX, un articolo di fondo. Attenzione, l'Unione Europea ha abolito una parola, extracomunitari. Un addio linguistico, d'ora in poi andranno chiamati, secondo il glossario migrazione e asilo, cittadini non comunitari, perché la parola extracomunitari viene considerata razzista, perché si non qualifica lo straniero in base alla sua comunità d'origine, bensì alla nostra, la comunità europea dalla quale lui è irrimediabilmente escluso. Dunque, extracomunitari non si potrà più dire, secondo l'Unione Europea, ma è più corretto dire cittadini non comunitari. E poi che dire, due segnalazioni di chiusura. Care signore e signori d'Italia, Elisabetta Canalis e George Clooney sono ufficialmente single, e dunque cari uomini italiani, Elisabetta Canalis è single, care donne italiane, George Clooney, che pare insomma aver dimostrato di avere un'attenzione verso le donne italiane, è single. George ed Eli si dicono addio e tutti i giornali sono impietosi. In realtà è la fine della coppia mai esistita, cioè una fine di una coppia virtuale. Anche per il Corriere, Clooney Canalis, coppia finita, ma forse non era mai nata. Insomma, questa coppia algida della quale da mesi si diceva stessero insieme così per opportunità, eccetera, sta di fatto con un comunicato hanno detto: lasciate la nostra privacy, preservatela, è un momento doloroso. E infine, precari di tutta Italia, se avete scritto il curriculum a Via Durini, a Milano, l'Inter, fate in fretta, perché pare che la panchina dell'Inter sia quasi data Gasperini, a tanto così titola la Gazzetta dello Sport, ma insomma affrettatevi, mancano 24 ore, se no pare che Gasperini possa essere il nuovo allenatore dell'Inter. 24 mattino, l'intervista. Alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare il ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, Raffaele Fitto. Ministro, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, i giornali non so se li ha già visti, devo dire che brandelli di sue conversazioni non ce ne sono, però vengono citati i giornali come anche lei una persona che intratteneva rapporti telefonici con Luigi Bisignani. È vero, cioè è preoccupato? Che ne pensa di questa inchiesta? No, guardi, io non ho intrattenuto nessun rapporto e quindi non ci possono essere né brandelli né altro. Detto questo, ritengo che sia, al di là della mia posizione personale, un fatto molto grave che si leggano sui giornali questioni che non hanno alcuna attinenza e rilevanza di carattere penale, ma che servono solamente a creare un clima che certamente non è da paese civile. Ora, il merito delle questioni saranno i tribunali e la magistratura ad accertarlo, e per quanto ci riguarda, come è noto, la posizione non può che essere quella di aspettare un giudizio e non certamente un'occasione come quella di mettere sui giornali conversazioni personali e private, che certamente hanno una valenza e un senso diverso. Non mi sembra che questo sia un fatto utile alla democrazia e al rispetto delle persone. Comunque lei dice non ha mai telefonato, perché oggi i giornali dicono una delle persone che più chiamava all'interno del governo frequentava, adesso io non so se chiamava o frequentava Luigi Bisignani. Lei smentisce di aver avuto alcun tipo di contatto? No, guardi, può stare tranquillo. No, io sono tranquillissimo, chiedevo. Quindi ci vorrebbe una legge contro la pubblicazione delle intercettazioni o rispolverare la legge che è approvata? No, ci vorrebbe un rispetto dei ruoli delle persone, nel senso che l'utilità ai fini processuali di molte delle intercettazioni pubblicate penso che sfugga a chiunque. Senta, parliamo di temi regionali. Secondo lei le regioni dovrebbero aiutare Napoli prendendosi i rifiuti? Guarda, abbiamo già fatto un accordo tempo fa che in parte ha funzionato. Oggi ci siamo di fronte ad una situazione alla luce di una sentenza del TAR rispetto alla valutazione su alcune tipologie di rifiuti, e penso che questo sia un problema che dovrà affrontare il governo dal punto di vista del chiarimento della verifica di questa sentenza dei tribunali amministrativi del TAR, e così come abbiamo sempre fatto, affrontare il tema in un confronto con le regioni. La scorsa volta lo facemmo risolvendo il problema e trovando anche la giusta solidarietà fra governo e regioni per andare incontro a questa esigenza. E nel frattempo è chiaro che il problema purtroppo sta scoppiando, perché ci troviamo di fronte a questa difficoltà che, come dicevo, è emersa dopo questa sentenza del TAR. Sì, ma secondo lei non c'è per esempio un blocco da parte della Lega all'interno del governo? Oppure anche la questione che adesso il sindaco di Napoli non è certo un amico politicamente parlando del Presidente del Consiglio o del governo, insomma Luigi De Magistris? Ma guardi, io penso e spero che prevalga sempre e comunque il ruolo istituzionale, che non ci sia una valutazione politica su problemi così seri. Il governo ha, e lo abbiamo fatto in conferenza Stato-Regioni proprio alcuni mesi fa, ha trovato un'intesa con tutte le regioni su questo tema, e quindi superando qualsiasi logica di appartenenza politica. Io penso che quel clima e quel livello di collaborazione debba caratterizzare sempre il rapporto tra governo e regioni. In questo caso sicuramente sono convinto, come fu all'epoca, che il rapporto di solidarietà fra le diverse regioni nei confronti della Campania non possa venir meno, e il rapporto fra governo e regioni per definire queste modalità poi si verificherà. A questo proposito, lei da meridionale, da anche ex governatore di una regione del sud, la Puglia, come vede l'atteggiamento della Lega da Pontida, la richiesta di trasferimenti dei ministeri al nord o di uffici? La vicenda dei trasferimenti è stata chiarita con una posizione unica che la maggioranza ha presentato proprio nei giorni scorsi durante il dibattito sulla fiducia, indicando in modo molto chiaro che nel pieno rispetto dell'articolo 114 della nostra Costituzione è possibile immaginare la previsione di uffici di rappresentanza. Questa è la posizione comune PDL-Lega. La Lega propone delle sue posizioni, nella maggioranza poi si giunge ad una sintesi. La sintesi è quella che vede insieme la posizione tra PDL e Lega. Questo è quello che si è fatto, e io l'ho avuto modo già di ribadire in altre circostanze, se un ministro valuterà opportuno immaginare di utilizzare una serie di rappresentanza, un ufficio di rappresentanza lo potrà fare. Io personalmente, come dicevo, ho ricordato in più circostanze che per quanto mi riguarda come ministro della Repubblica ritengo di avere numerosi uffici di rappresentanza, perché utilizzo ogni qualvolta mi muovo per l'Italia le prefetture che... Quindi in ogni non ne ha bisogno, quindi lei rimane a Roma? A Roma rimangono tutti i ministeri. E per quanto mi riguarda ho detto che rispetto all'ufficio di rappresentanza penso che le prefetture di tutta Italia siano degli ottimi uffici di rappresentanza per i ministri. Ma voglio dire, utilizzerò sempre le prefetture. Sì, ma quindi quando, non so, sente da Pontida magari qualcuno che urla secessione o alcuni slogan che ancora tornano, o il vice ministro Castelli che ieri proprio a Radio 24 ha detto a Roma non vogliono pagare il raccordo anulare perché sono culturalmente arretrati, cioè cosa sono? Butade elettorali? No, sono posizioni, diciamo, che sono emerse anche nella manifestazione di Pontida, che fanno parte di uno spaccato interno ad un partito che poi deve trovare la sintesi all'interno di una coalizione. Quindi le cose che vengono dette in una manifestazione da parte di un partito sono la posizione di un partito. L'importante è che nella posizione del governo si faccia sintesi, trovando punti di equilibrio che invece diano delle risposte chiare. E sul tema dei ministeri, come dicevo, è stata presentata una posizione ufficialmente in Parlamento con un documento sottoscritto fra PDL e Lega che parla esclusivamente, così come previsto, di uffici di rappresentanza e non di altro. E questo penso che riguardi ogni singolo tema. Un conto è come viene posto, un conto è quello che poi viene fatto. Va bene. Ministro, vi salutare e ringraziare. Allora lei, perché io glielo avevo dato quasi per certo, nel senso che i giornali parlano dei contatti più frequenti, non so, per esempio Repubblica la mettono al terzo posto con sempre con Bisignani, dietro la Santanchè, Frattini e Lorenzo Cesa. Però lei dice non... Io Repubblica non l'ho ancora letta. Se dovesse essere questo, penso che Repubblica avrà qualche problema per giustificare questo. Però ecco, faccio la premessa che non ho ancora letto Repubblica, no, perché... Dico, politica e affari, i contatti più frequenti di Bisignani sono primo Santanchè, secondo Frattini, terzo Cesa, quarto Fitto. Guardi, le assicuro che è impossibile. Se dovesse essere questo, Repubblica poi lo spiegherà nelle sedi competenti. Ah, vabbè, querelerà Repubblica, insomma. Non ho mai avuto nessun tipo di contatto e quindi non è possibile che ci possa essere questa cosa. Se questo e quanto è stato scritto, troverà il modo di manifestarlo e dimostrarlo nelle sedi competenti. Va bene. Intanto la ringrazio, ministro, per essere grazie stato con noi. Grazie al ministro Raffaele Fitto, rapporti con le regioni e la coesione territoriale. Ci fermiamo per la pubblicità e meteo. Poi parliamo di quello che ha detto il sindaco di Bologna qualche giorno fa e che ha suscitato una polemica. Il sindaco di Bologna ha detto che bisognerebbe pensare di favorire le coppie sposate rispetto alle unioni di fatto. Le coppie che assumono un contratto, un'unione, che si impegnano con il matrimonio, dovrebbero essere favorite rispetto a chi invece questa assunzione di responsabilità non la fa. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:36 minuti. Allora, a parlare del nostro sondaggio di matrimoni, di unioni di fatto. Perché? Perché il sindaco di Bologna ha detto in sostanza bisogna favorire le coppie che si sposano, che hanno un'assunzione di responsabilità maggiore. Per la verità lui il matrimonio lo vede anche tra persone dello stesso sesso. Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, siamo qui alle 8:36 minuti e ne vogliamo parlare con due ospiti che saluto. Il sottosegretario con delega alla famiglia Carlo Giovanardi, buongiorno. Buongiorno. E Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, buongiorno Ferrero. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Allora, dobbiamo partire però da quello che ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, che era intervistato a una TV locale, che ringraziamo, ci ha mandato il file audio, la TV è ETV, nella trasmissione Dedalus. Sentiamo allora l'intervistatore, che Francesco Spada, che gli fa una domanda su la questione favorire anche con punteggi in più le persone che si sposano. Sentiamo la domanda e la risposta del sindaco di Bologna. Si possono aspettare per ottenere, non so, la casa, per ottenere qualche agevolazione, la famiglia fondata sul matrimonio può aspettarsi dal sindaco Merola un punto in più Io penso che sia così e deve essere così, perché noi siamo persone libere, poi nella vita dobbiamo sapere mettere insieme anche la responsabilità con la nostra libertà. Se ci assumiamo degli impegni verso gli altri maggiori, credo che sia necessario distinguere. Parti eguali fra disuguali è il disastro del nostro paese. Chi assume legami di libertà maggiori rispetto ad altri penso che debba essere riconosciuto. Poi ci dividiamo sul concetto di matrimonio, perché io, come noto, penso che sia legittimo anche il matrimonio civile. Certo, ma io facevo riferimento alla legge, lei parlava della legge. No, il matrimonio civile e il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Anche quindi se lei non, mantiene questa idea? Certo, anche se non è di competenza del comune, perché come sapete è un provvedimento generale, nazionale. Allora, questo ha detto il sindaco Merola. Poi, al di là del fatto che ha un po' preso le distanze, ha fatto marcia indietro perché c'è una legge regionale in Emilia-Romagna che invece dà pari diritti agli unioni di fatto rispetto a chi invece si sposa, e quindi ha dovuto prendere le distanze. Però il tema è questo, interessante. Allora, segretario Ferrero, Merola, al di là del fatto che per lui il matrimonio è anche tra due persone dello stesso sesso, e questo l'ha detto, però ha detto il matrimonio, cioè chi contrae questo tipo di contratto e quindi una responsabilità maggiore, deve essere più tutelato rispetto alle unioni di fatto, a due persone che convivono. Che ne pensa? Ma intanto penso che non è una cosa da poco quella che ha detto Merola, cioè che il matrimonio sia anche tra persone dello stesso sesso. Questo direi non, paradossalmente non è che si può far passare questo in secondo piano, quindi questa è una cosa anche rilevante, di questa è una cosa molto rilevante. Detto questo, io penso che sia sbagliata la cosa di Merola, perché i diritti invece devono essere per le persone che convivono, sia nella forma del matrimonio, sia nella forma dell'unione di fatto, sia, mi sia permesso di dirlo, per le persone che vivono da sola. Non è che il diritto alla casa ci deve essere solo per chi si sposa e invece chi vive da solo non ha il diritto alla casa. E farei notare anche a Merola che se uno guarda il numero dei divorzi che c'è, forse la tesi secondo cui il matrimonio è una scelta di responsabilità, diciamo così, che dura tutta la vita, questo forse valeva per la generazione dei miei genitori e forse per quelli un po' più vecchi. Oggi uno deve prendere atto che il numero dei divorzi è incredibilmente alto, e che forse se uno andasse a vedere se durano di più i matrimoni o le coppie di fatto, è possibile che scopra delle cose le coppie di fatto, lei dice. Non c'è. No, dico semplicemente che non c'è l'elemento. Quindi io credo che la dichiarazione del sindaco sia sbagliata, e che invece il problema sia di garantire i diritti a tutti coloro che scelgono nelle diverse forme e tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso di convivere e di condividere insieme una parte della propria esistenza. Sì. Allora, io su questo, senatore Giovanardi, sottosegretario, io credo che ci sia stata forse una fuga in avanti da parte anche da esponenti del centrodestra a dire bravo Merola, applaudiamo Merola. Forse è sentita tutta la dichiarazione, sicuramente nella seconda parte, cioè i matrimoni tra persone dello stesso sesso, su questo la vedrà contrarissimo. La vede invece favorevole nella prima parte, cioè l'idea di riconoscere una maggiore assunzione di responsabilità, dunque maggiore diritti a due persone che si sposano? Beh, intanto la seconda parte è arrivata una settimana dopo, frutto delle polemiche. Sì. La prima parte invece... No, questa è la dichiarazione ufficiale, è la dichiarazione che ha suscitato tutto. È quella di venerdì scorso. Cioè sì, venerdì scorso, nella quale Merola, sorpresa, ha citato la Costituzione italiana. Sì. Cioè tre articoli in vigore della Costituzione laica e repubblicana, che dice che la Repubblica favorisce la formazione di nuove famiglie. E dice che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Questo dice la nostra Costituzione. Sì, solo che per lui il matrimonio è anche tra due persone dello stesso sesso. Tanto lui ha detto che il matrimonio, e quindi tutte le polemiche che ha avuto a Bologna da sinistra, sono perché vuole applicare la Costituzione, che dice che siamo tutti pari all'articolo 3, tutti, 60 milioni di italiani, ma c'è una posizione di privilegio per il capitale sociale, per la coesione sociale, perché due persone oltre i diritti accettano anche i doveri verso la società, che è il matrimonio, che secondo i tre articoli della Costituzione deve essere guardato con una posizione di favore. E questo, la cosa incredibile è che non gli hanno detto bisogna cambiare la Costituzione italiana, gli hanno detto non bisogna applicarla. Invece la Costituzione c'è, è in vigore, è saggia, perché questo incontro fra un uomo e una donna con potenziale stabilità, con nascita dei figli, non è soltanto il passato, è anche il caposaldo sul quale si costruisce anche il futuro. Liberissimi poi nella nostra società, ognuno di vivere come vuole, nella società liquida, no? Sì, senza piegarsi nessun impegno. Però lei dice, no, a questo non deve corrispondere una risposta della società di diritti uguali, insomma. No? I diritti sono dell'articolo 3, sono tutti uguali, ma si può fare, bisogna cancellare l'articolo della Costituzione. Allora io vedo che la sinistra, sono un anno giustamente che attori, intellettuali, ogni giorno vanno a leggere per TV articoli della Costituzione dicendo che è sacra e intoccabile, principi fondamentali. Ma quello no. Questo principio fondamentale invece della Costituzione viene abrogato di fatto, non si può abrogarlo perché, ma non solo in Italia, il fatto del diritto dovere, penso alla reversibilità per esempio, no? Sì. Penso all'accesso alla nuova casa, a una casa in cui due vogliono realizzare un loro progetto, non solo per loro due, perché le coppie di fatto hanno la caratteristica che oggi ci sono, domani no, dopodomani no, perché non volendo avere... Ma vede la lettura, Ferrero, lei dice che è il contrario, sono più le coppie sposate che a meno oggi ci sono, domani no, invece le coppie di fatto... Non voglio sostenere la tesi che siano di più, sostengo che per l'esperienza, da quella personale che ho vissuto io a quella che vedo in giro, non vedo grossa differenza. Questo mi pare il punto. Però dice Giovanardi, volete introdurre delle novità senza cambiare la Costituzione, cioè questa è la questione fondamentale. Allora, io qui starei sulla sostanza, sul piano della lettera, diciamo così, Giovanardi ha delle ragioni, perché la Costituzione italiana, che io credo abbia degli ottimi principi assolutamente da salvaguardare, ed è per questo che la difendo a spada tratta, è però, come è evidente, figlia del suo tempo. E nella società che ha prodotto quella Costituzione, appunto, la società di mia nonna, in cui lo dico col massimo rispetto, ma in cui è evidente che non era nemmeno ipotizzabile, ad esempio, il divorzio, perché era normale che una persona stesse con un'altra tutta la vita. Oggi io penso che bisogna prendere atto che questo fatto qui, per una modifica dei costumi e quant'altro, si è cambiato. E secondo me il problema dello Stato, che non essendo uno Stato etico non deve imporre dei modelli, ma deve possibilmente accompagnare la civiltà di un paese. Sì, sì. Secondo me il problema dello Stato è di accompagnare questa modifica di costumi, tentando di evitare che siano distruttivi. Ad esempio, io penso che la regolamentazione delle coppie di fatto e anche la fissazione di alcuni diritti per le persone che stanno nelle coppie di fatto sia un punto decisivo, perché io penso a cosa può essere per una donna essere lasciata, magari una donna senza lavoro, essere lasciata all'interno di una coppia di fatto così, senza nessun diritto né niente. Io penso che invece sia bene garantire una serie di diritti in modo che ad esempio la parte più debole Sia tutelata, delle tutele, sia di più. Secondo me questo è il problema dello Stato italiano, allora, cioè di però, come accompagna anche le modifiche del costume tentando tramite di le normative, tramite le leggi. Ripartiamo dopo il traffico da Giovanardi a qualche ascoltatore. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Devo dire che il 58% c'è una leggera prevalenza per i sì, cioè chi dice che ci siano da favorire le coppie sposate, ma vorrei sentire come ascoltatrice Roberta da Roma, buongiorno. Buongiorno, dunque io sono assolutamente d'accordo con ciò che ha detto l'onorevole Giovanardi, anche perché qui siamo in una società dove i concetti, le parole non sono più rispettate. Matrimonio, famiglia significa l'unione fra un uomo e una donna, sì. Quindi non sono d'accordo con il sindaco. Quindi questo è l'aspetto di due persone dello stesso sesso, ma le chiedo Roberta, il principio per cui una coppia sposata debba avere più diritti, non so, più punteggi in graduatoria rispetto a un uomo e una donna che convivono, questo, proprio per l'assunzione di responsabilità. Questo lei lo trova giusto, anche questo? Assolutamente sì, io ho una figlia che convive e quindi potrei essere favorevole all'altra soluzione, sì. Non lo so. Per motivi personali, insomma, però lei dice, qui discutiamo di principi. Va bene, ma altrimenti abbiamo, certo, una confusione, ma no, ma il suo... concetti, di idee, di parole, cioè noi fra un po' non ci capiremo più. Questa è la sua opinione molto chiara. La ringrazio, Roberta. Voglio andare a Milano da Marco. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, anche agli ospiti. Io penso che nel 2011 fare una distinzione tra coppie di fatto e coppie sposate sia del tutto anacronistico. Io volevo portare un esempio, non è strettamente personale, però riguarda un membro della mia famiglia. Mia cugina ha convissuto 5 anni con un uomo. Sì. Purtroppo è finita. Diciamo che lui si è ammalato in maniera terminale e prima di riuscire a sposarsi lui è morto. Al momento della morte avevano un figlio e mia cugina era incinta, avevano comprato anche una casa. Adesso praticamente mia cugina si ritrova, questa casa non ci può far niente perché comunque non essendo intestata lei è passata ai legittimi eredi che sono i figli, però i figli uno ha 8 anni e l'altro ha 5, quindi fino a 18 anni questa casa non si può toccare. Stessa cosa vale per... Cioè lei dice non ha garantiti i diritti perché non si era sposata, questa, esatto, è la differenza. Esatto. Questa è la cosa importante. Marco, sì, mi scusi perché altrimenti è una storia interessante, però il tempo vola, vorrei andare al sottosegretario Giovanardi, replica ai due ascoltatori e le chiedo anch'io, ma questa idea di un'unione di fatto, cioè di due persone, uomo e donna, che fanno figli... E quindi allora, preservano anche, assolvono anche a quel compito che lei faceva riferimento, cioè di garantire un futuro. Due cose rapidissime: divorzio, si parlò alla Costituente, non è stato scritto in Costituzione la proibizione di divorzio proprio perché c'era anche l'idea che prima o poi potesse essere immesso nella nostra società. Seconda cosa, seguendo il ragionamento dell'ultimo ascoltatore, si apre anche il matrimonio, perché se qualunque forma di convivenza, qualunque, uomo-donna, uomo-uomo, ma anche l'anziano solo, giustamente, dice Ferrero, ma e gli anziani soli? E che facciamo? Non hanno diritto alla casa anche loro? Allora noi stabiliamo che 60 milioni di italiani, in qualunque formazione sociale vivono, in qualunque situazione anche temporanea si mettono, hanno dei diritti, per esempio la reversibilità. La reversibilità la diamo a qualunque, a due studenti che vivono assieme, a un uomo e una donna che vivono assieme, a due uomini che vivono assieme, andatelo a dire a Tremonti. Però scusi, sottosegretario, cioè l'ascoltatore si ponga nella questione di questa signora che ha vissuto questo dramma. Quello che mi colpisce in questa situazione è che, fermo restando, lo stiamo discutendo adesso alla Camera e siamo tutti d'accordo, che dal punto di vista dei figli nati fuori o dentro il matrimonio devono essere esattamente uguali, ma perché queste persone non si contestano la casa? Non si contestano l'affitto, non scrivono due righe di eredità, perché non lo fanno? Ma cosa vuol dire? Cioè, qualche ragione. Ma cosa vuol dire? Anche molti che si sposano hanno la separazione dei beni, voglio dire. Esatto, però qua in caso di successione, se muore anche con la separazione dei beni, ereditano. Cioè possono benissimo regolarizzare con gli strumenti del codice civile, se non lo fanno forse... C'è una qualche ragione, perché le cose non sono queste, se molte volte c'è un'altra famiglia, c'è una moglie separata, ci sono degli altri diritti, non è che nella vita uno cambia pagina, lascia tutti i rapporti che aveva prima, compresi i figli. Io seguo le vicende dolorose di 800.000 separati con figli in Italia e so cosa vuol dire la conflittualità, cosa vuol dire molte volte i litigi sui figli, cosa vuol dire vite rovinate, di associazioni dei padri e delle madri separate, o anche situazioni di fatto che si trascinano, perché proprio la conflittualità nasce quando ci sono situazioni molto complesse, non è sempre così molto facile. Comunque, anche una recente trasmissione televisiva, una signora che è venuta a lamentare la sua esclusione da una cerimonia, non ha detto che è stata la figlia del defunto che ha detto un out, se viene lei non vengo io. Vabbè, questo non... però in ogni caso lei mi risponda con un sì o con un no. Se due persone convivono, un'unione di fatto, uomo e donna, hanno figli eccetera, hanno, come dice il sindaco di Bologna, devono avere meno, non so, punteggi in graduatoria di uno che è sposato. Meno. Tutti gli italiani hanno pari diritti, tutti. Chi però si assume tramite il matrimonio civile o religioso delle responsabilità di più, nei confronti di più della società, la Costituzione impone che debba essere favorito. Va bene, va bene. Questa è molto chiara. La ringrazio, il sottosegretario Giovanardi, così come il segretario di Fondazione Comunista Paolo Ferrero, per essere stati con noi. Tutti gli ascoltatori, avete chiamato in tantissimi, non c'è stato spazio per alcuni altri nomi, scuso, con Giovanni da Pordenone, Antonello da Varese, li recupereremo. Andate su Facebook nella nostra pagina 24 Mattino, che lì continua la nostra discussione. Grazie in redazione Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Pietro Lacorte in regia. Do la linea, la palla, il microfono a Oscar Giannino. Noi ci troviamo domattina alle 7:20.